La Zanzara Extra. Allora ragazzi, qui abbiamo un generale che si aggira per l'Italia, un generale che vuole sequestrare il Parlamento, un generale che, mi ricordava prima il signor Telese, è stato deputato del Partito Socialdemocratico Italiano e dunque prende anche il vitalizio, il generale Pappalardo, il quale dice che il Parlamento è illegittimo, non può fare nulla, dunque bisogna arrestare i parlamentari, bisogna che il capo dello Stato intervenga per sciogliere il Parlamento. Vorrei ricordare al signor Pappalardo che il Parlamento fra poco viene sciolto. Comunque il signor Pappalardo che dice che è in atto un golpe da diversi anni, che sono tutti illegittimi e che loro ristabiliranno l'ordine. Loro chi? Quelli che hanno il popolo dietro, dice, ma non c'era nessuno in piazza del Parlamento dove è andato. Pappalardo, chiamiamolo Parenzo, chiamiamo Pappalardo, non ce la faccio più di sentisti matti. Pronto. Generale? Sì, con chi parlo? Sì, buonasera, qui Radio 24. A Radio 24, mi dica allora, che notizie mi dà? Come fine, che avete fatto? Una denuncia alla polizia? Che avete fatto alla fine? No, abbiamo fatto una cosa che non è mai stata fatta in Italia. Cioè? Il popolo sovrano ha dato atto di diffida al capo dello Stato di sciogliere il Parlamento. Il popolo, è successo prima. Popolo sovrano ha dato diffida. Sovrano ha dato una diffida al capo dello Stato in 80 giorni. E ma sta diffida come gliel'ha consegnata, sta diffida? Generale? Al commissario che stava lì, che ha firmato, e gli abbiamo dato l'atto. Ah, gli ha dato l'atto, ma al commissario di che cosa? Di polizia? Certo. Ma come certo? Generale, certo. Commissario, scusi, commissario, per i casi come il suo, no, sono Parenzo. I casi come il aspetta. Noi abbiamo consegnato un atto di diffida al commissario che era lì e abbiamo detto al commissario: questo è un atto di diffida. Ma era lì dove, scusi? In piazza, faceva ordine pubblico. Un poliziotto che stava lì a fare l'ordine pubblico, mi scusi. Certo, un poliziotto è l'autorità di pubblica sicurezza della piazza Montecitorio. Assolutamente. Avete consegnato questa diffida? Sì. Sì, è lui che ha fatto questa diffida. E se, se il capo dello Stato non fa niente? E lei cosa vuole da me se non fa niente? No, una domanda, se il capo dello Stato non fa niente, a parte bisogna vedere se... E lei cosa vuole da me se non adempia? Ma non lo so, ma guardi che la legislatura sta finendo, generale, cioè non c'è bisogno di sciogliere il Parlamento, ormai è finita la legislatura. Sì, però lì a lei sfugge un particolare. Innanzitutto mi meraviglio che voi giornalisti non abbiate colto il fatto che il popolo sovrano ha dato un atto di sfida al capo generale dello Stato. Ma popolo sovrano chi? Ma quale popolo sovrano, scusi? Le persone che erano con lei? Lei? Ma il popolo sovrano sono mille. Generale, scusa, la prima volta il popolo, anche in 3.000 unità, ha consegnato un atto di diffida. Questi sono abusivi da 3 anni e mezzo. Sì. Il magistrato li dovrebbe arrestare. Attenzione, non lo diciamo noi, lo dice Zagrebelsky, lo dicono tanti magistrati. Non mi risulta. E questi sono abusivi da 3 anni e mezzo. Ma Zagrebelsky dice che bisognerebbe arrestare i parlamentari. Mi scusi, dice che sono nelle condizioni di grave illegittimità. Lei che è generale. Scusi, lei sta facendo l'interrogatorio a me o vuole sapere quello che stiamo facendo? Scusi, io non ho tempo da perdere con lei. No. Io mi confronto con il popolo. Aspetti un attimo. L'interrogatorio a me. Ma che interrogatorio? Io le sto dicendo quello che noi faremo. Le sto chiedendo una cosa. Gravi delitti. E la magistratura deve intervenire. Generale, scusi, l'interrogatorio lo faccio io a me. Che non ha fatto il suo dovere. E non ha informato i cittadini che questi hanno commesso intranamente gravi delitti. Io l'interrogatorio lo faccio a lei. Da generale dell'arma. Faccio l'interrogatorio a lei. Come mai lei non ha informato i cittadini? Che questi da 3 anni e mezzo sono abusivi. Forse devo essere arrestato pure io, generale. Le posso chiedere una cosa, generale? Sì, mi dica. La cosa è questa. Lei per caso mi risulta che prende il vitalizio o sbaglio? Attenzione, io, siccome voi andate a vedere, ma prende la domanda, non valete un fico secco. La domanda, prende il vitalizio, no, sì o no? Io faccio una domanda a lei. Lei sa che questo vitalizio a me come serve per girare tutta Italia? Sono 2.000 euro. Vabbè, ma lei lo prende, sì o no? Se io giro per tutta Italia, ancora lo debba a quei 2.000 euro, perché non potrei andare in giro. Ma lo prende, sì o no? No, lei deve dire... Ma lo prende, sì o no? 5 Stelle. Lei deve dire a quelli del Movimento 5 Stelle. Lei deve dire a quelli del Movimento 5 Stelle. Ma lo prende, sì o no? E sono pagati dal Parlamento. Ma lo prende, sì o no? Tutto. Ha capito? Ma lo prende, sì o no? Lo prende o no? Lo prende o no il vitalizio? Io prendo quello che io ho pagato. Lei è un privilegiato, allora. È un privilegiato. Lei è un privilegiato, allora. Ho pagato i contributi. Cioè, lei vuole arrestare il Parlamento, però prende il vitalizio. Io ho pagato i contributi, 120 milioni. Lei come gli altri, allora. È come gli altri. Io ho pagato i contributi. Lei è un privilegiato come gli altri. Se ne vada, vado a parte prigia. Abbiamo scoperto, no, il punto dolente, il generale che vuole sequestrare il Parlamento. È una roba da barzelletta, ragazzi. È una roba da teatro, è una roba da film. Generale, ma se generale, un generale discredito sull'arma, non chiamarlo, ragazzi, generale. Più discredito di questi giorni, però non mi pare che il generale possa apportare. No, discredito. Chiamalo, allora, no, Pappalardo. Adesso lo richiamiamo. Pappalardo, generale Pappalardo dell'AR, ex generale dei Carabinieri, vuole sequestrare il Parlamento e ha 3.000 euro di vitalizio. Ho pagato i contributi, strilla come gli altri che dicono abbiamo pagato i contributi. Quali contributi? Sì, abbiamo deciso, richiamiamo, richiamiamo, richiamiamo. Lei è un emerito cialtrone. No, ha capito che è un emerito cialtrone lei? Sono Parenzo, generale. Come si permette? Lo so che lei è Parenzo ed è un cialtrone lei. Ha capito che è un cialtrone. Io i soldi, i soldi che i 2000 euro, io ho pagato 120 milioni di lire. Io al mese, sono Parenzo io. Quello è Cruciani. Generale, io sono Parenzo. L'altro con cui ha parlato è Cruciani. Io sono Parenzo. Allora, mi stia ad ascoltare. Calmiamoci. Mi stia ad ascoltare. Io ho pagato 860 milioni al mese. Generale, mi ascolti un attimo, perché se non mi sente, le volevo dire questo, generale, ma con grande tranquillità, davvero. A parte che il vitalizio è di 3.108 euro, ecco, non 2.000. No, 3.000. Prendo 2.000 euro. Ecco l'altro. Netti, netti. Prendo netti alla mano 2.000 euro. Vabbè, comunque, le sempre 3.000. Ho pagato, generale, ho pagato 120 milioni di lire per come... Come gli altri, privilegiato come gli altri. Privilegiato come gli altri. Poi non mi deve far finire parlare. Siccome non ho finito la legislatura, mi hanno fatto pagare per 3 anni e mezzo 870 mila lire al mese. Sempre un privilegiato. Quando io, colonnello dei Carabinieri, prendevo 1.800.000 lire. Lei prende la doppia pensione, lei prende la doppia pensione, pure da carabiniere prende la pensione. Due pensioni. Io prendo la pensione di generale dell'arma. Due pensioni. Due pensioni. Bene, quella da deputato e quella da carabiniere. Poi vuole arrestare il Parlamento. Comunque, Parenzo, parla tu, dai, parla tu, Parenzo. Io voglio dire questo al generale. Lei, generale, in questo momento deve alzare le mani e si deve arrendere. Ma si deve arrendere davanti a un plotone di medici! Perché lei, ma lei è uno stronzo! Lei è un emerito stronzo! Ha capito? Va, lei è un emerito stronzo! Perché non viene qui davanti a me a parlare? Lei è un emerito stronzo! Ha capito? Lo dirò nei miei video, dirò che lei è un emerito stronzo, la zanzara del cazzo! Lei è la zanzara del cazzo, ha capito? Scusi, generale! Lei è un emerito stronzo! Generale! Generale! Generale! E intanto il generale Pappalardo ha reagito su Facebook contro la zanzara. Cari amici, quei cialtroni di Cruciani e di Parenzo, quegli emeriti cialtroni venduti alla Confindustria perché sono pagati da questi mascalzoni, hanno cercato di dirmi delle insolenze con questa trasmissione della zanzara della minchia. Questa zanzara che invece di andare a controllare i peli del sedere alle lobby di potere, a quelli che affamano il popolo, vanno a rompere le scatole a un generale dei Carabinieri che per 42 anni ha fatto il suo servizio, il suo dovere dappertutto, con onestà, con lealtà. Li ho fatti a pezzi, li ho mandati dove si meritano. Ho detto di togliersi dalle scatole e di non rompere le scatole di un uomo che con il popolo è andato lì a rivendicare un giusto diritto. Vi ha disprezzato. Questi cialtroni della zanzara vi hanno disprezzato il popolo. Ma dov'è? In un poligono di tiro. Ma dove l'ha detta questa cosa? Lo senti? Sottofondo c'era delle esplosioni. Ma no, dove, ma cazzo sei? Ma quando ho avuto il tempo di dire sta roba? A genera, quando cazzo stai al poligono di tiro? Ma perché? Che s'è andato a esercitare per il golpe? Ma dove l'ha detto? La roba peggio di Tognazzi. Non lo so. Su non Facebook, Davide! Su Facebook, cazzo! Esiste anche Facebook come mezzo! Ancora, non è ma finita. Ma il tio Grillo non ha un cazzo da fare sto generale. No, però, perché ti fa una novità, secondo te? Pia due pensioni, una da generale e l'altra da deputato, e pensa a arrestare i parlamentari con due pensioni? Ma roba, no, incredibile, dai. Senti. Cialtroni! Cruciani e Parenzo, siete due cialtroni! Siete due emeriti cialtroni, disprezzate il popolo che diffida il capo dello Stato che tiene in piedi ancora questo governo, parlamento di abusivi. Siete due cialtroni, non meritate altro che lo sputo in faccia da parte della gente. Non meritate altro, siete il letame più schifoso della nostra società. Io, mi fa impazzire. Sì, è meraviglioso, certo, è meraviglioso. Il fucile dietro. Ragazzi, togliete Iervino. No, ma arrestatelo anche. Ma che arrestatelo? Ma che dobbiamo allora perdere tempo? Ma dobbiamo no, perdere ma tempo. Un attimo, gli voglio dire due paroline a questo bisco. No, che risponde il suo. E richiamatelo, dai, forza, richiamalo. Dai, richiamalo. Chi risponde il suo? Vergognatevi, voi della zanzara della minchia, mentre questi dal 2014 erano abusivi, voi della zanzara, che cazzo avete fatto? Siete stati zitti, non avete puntato il dito. Cruciani e Parenzo, toglietevi dalle scatole, mi fate semplicemente schifo. Ehi, hey, Cruciani! Quanti soldi devi avere? Dalle ma perché sono solo? Porca ma che è successo? Ma scusa, sei andato... La zanzara. Allora, qui siamo all'over the top, cioè siamo a discorsi fondamentali che riguardano la vita di coppia. È una puntata speciale questa qua in cui c'è un professore, un medico, un sessuologo. Credo che lei sia sessuologo, no, dottor Bernorio? Sì, sono un ginecologo, psicoterapeuta, sessuologo. Sono un ibrido. Un ibrido. Un ibrido, questo non è male. Allora, io mi faccio sponsor assolutamente ibrido. di questo ibrido di questo convegno di fine novembre, in cui in realtà non c'è da giocare, non c'è da scherzare. Si trattano, che ne dica Parenzo, si tratta di problemi fondamentali, di problemi importantissimi in ogni coppia, anche delle persone che non se ne interessano direttamente, anche di persone che alla fine tutti sono lì nella camera da letto, tutti si trovano di fronte, anche le coppie, quelle che stanno insieme da tanti anni, si trovano di fronte a questi dilemmi, per esempio il sesso anale. Allora, dottor Bernorio, facciamo un piccolo riassunto. Che cos'è la quella che lei chiama la anodispareunia? Che cos'è anodispareunia in sostanza? Anodispareunia significa provare dolore da parte della donna nel momento in cui sperimenta una penetrazione anale con il suo partner, e quindi provare dolore. E quante e persone si... Ironicamente è un destino o un problema? Perché per qualcuno dice, tutte le donne sentiranno dolore, per qualcuno dice di no, e quindi io cercherò con la mia relazione di chiarire questo aspetto, cioè? Nel senso che è qualcosa che c'è in tutte le donne o qualcosa che dobbiamo ritenere anomalo, che va curato? Quante donne si presentano da lei con questi problemi, per esempio? Beh, diciamo che stanno aumentando. La cosa interessante è che la famosa liberalizzazione sessuale qualche effetto lo sta dando. Cioè? Quindi le persone praticano una sessualità che non avrebbero mai osato praticare magari molti 50 anni fa, sì? E oggi si pongono dei problemi e come si può, come si nella scienza e nella medicina. Come si può superare tecnicamente, diciamo, il dolore della penetrazione anale? Allora, l'importante è capire che di fondo ci sia una predisposizione psicologica verso. Cosa perché ci vuoi sono capire? Alcune donne che dicono lo faccio solo come prova d'amore, non ci siamo, non va bene, esatto, poi il nostro corpo si mette di traverso. Bravo, giustamente. Bravo, stiamo su quelle donne che invece hanno il desiderio di sperimentare e poi sperimentano un dolore. Allora dobbiamo prima di tutto escludere delle cause organiche, delle fistole, delle emorroidi e altre cose. Mamma e poi dobbiamo mia. Talvolta aiutare le donne a liberarsi da quella che è una contrazione involontaria della muscolatura dell'ano, sì, proprio perché c'è un po' di paura. E come si fa? Quindi l'aspetto più riabilitativo. Ecco la domanda. E come si fa? Lo studente, il bravo studente curioso. Certo. Come si fa ad evitare questa contrazione che impedisce, come dire, al pisello di fare il suo percorso naturale, diciamo? Non è naturale, percorso naturale. Prima di tutto è importante che il partner sia

Cioè questo è Francesca da Varese, no, 27 anni. No, non è questione di paura. Hai paura di affrontare? È una cosa oggettiva che si prova. Sì, però tu hai... Sì, è vero, però tu hai paura di affrontare l'ignoto. Questo è il punto. Hai paura di affrontare questo mondo ignoto. Hai paura di affrontare questo mondo ignoto. Tu me l'hai detto che non hai provato ancora. No, ho detto che non lo faccio abitualmente. Ah, l'hai provato allora? Sì. Hai provato anche dolore? Problemi, ho avuto ragadi, ho una pelle molto sensibile, evidentemente pure. Anche lì. Ma hai un rapporto fisso tu oppure sei... Come sì, dire, sì, ho il mio ragazzo. È il tuo ragazzo, no. Con cui praticate, però adesso questo stop che c'è stato evidentemente è provocato da una reazione tua. Sì, di grande difficoltà, sì, capisco, di grande difficoltà, nel senso che adesso dopo qualche esperienza, le ragadi e tutte queste cose qui, hai un problema. C'è il tuo fidanzato o no là vicino? Sì, certo. C'è il tuo fidanzato, passami il tuo fidanzato un attimo, così okay, io dico, bello, dico. Ale, vogliono... Ale? Pronto? Ale, allora, i conetti dilatan, prendi appunti, conetti sanitari per dilatazione progressiva dell'ano, 3 conetti di misura crescente, 40 euro, cioè misura crescente a seconda naturalmente del problema che ha la tua fidanzata. Attestato 10 più, attestato questo signore che evidentemente aveva un problema con la sua fidanzata e con le sue parti. Devo dire che comunque, cioè, io vivo la mia sessualità molto bene, nel senso che anche comunque... Cioè, ho capito, però ci hai provato, è andata male perché gli, gli hanno preso le ragadi e sono arrivate le ragadi, ti stiamo dando un consiglio concreto, adesso sto vivo bene. No, ci sta, vivo bene, io però rispetto comunque anche il parere di Parenzo che queste, diciamo... Vedi, sono tutti parenziani, questi che chiamano alla fine sono tutti parenziani. Sono tutti parenziani, è incredibile. Sono parenziano. Ma non lo dica. Ma sì, io vi querelo tutte e due. Lei e la sua compagna, faccio una querela valida erga omnes. Basta, non lo dica più. Non vada in giro a dirlo. Ciao Francesca. Ciao. Oggi sarò qui a Monte Cesario. Se tutti sarete ancora scendete a parlare con me, diritti e doveri, 1.000 euro, vergogna, e io parlo con la generazione di vostri sputi. Titusi, e io parlo con la generazione di vostri sputi. Titusi, Appatrici, Titusi, Renzi, Titusi, Alfano, Titusi, Leni, Titusi, Appatrici, Titusi, Renzi, Titusi, e io parlo con la generazione di vostri sputi. Ho strappato l'Inps oggi! Ho strappato l'Inps! Il segnale orario vi è offerto da... Rive, rassegna di enologia e viticoltura, 12-14 dicembre, Pordenone Fiere. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presento La Zanzara. Fiorella da Udine, vai Fiorella, vai. Buonasera Fiorella, dimmi sorella. Allora, io per l'ennesima volta... Ah, Fiorella da Udine, la nostra amica Fiorella da Udine. Sì, Parenzo. Sì, oddio, sono molisana, vivo e insegno a Udine. Non so chi sia. Come non sai chi sia? Te la dovresti ricordare, adesso fra poco te la ricorderai. Non so tutti i mostri che chiamano qua. Vabbè, ma è la demenza senile che lo fa parlare. Ma io non è che posso ricordarmi che tutti i dementi che chiamano. Anche la demenza senile, sto coglione che parla... Ma sì, stai un po' zitto e fammi parlare. Io ho avuto lei ha avuto tanti problemi, è caduta dal seggiolone da bambina, guarda, e questo lo sappiamo. Demente, ma io ti aspetto fuori, ti faccio una faccia come la fisarmonica. Lei è professoressa, guarda. Lei? Professoressa della zitto, scuola pubblica? Taci, non ti voglio sentire. No, lei è professoressa, giusto? Ricordiamolo. Ti faccio nero, guarda. Scusa, Fiorella, amica mia, tu sei quella per ricordare, scusami, sei quella che dice che non andresti mai con uno di sinistra perché sono meno performanti. Assolutamente. Sono meno performanti. Professoressa della scuola pubblica. Dio, guarda. Ma professoressa per della scuola pubblica, avanti. Oddio, prego. Mio, non ce la faccio più a sentirlo. No, beh, certo. Cioè, ma veramente, guarda, ma lei legga, legga in classe il libro. Bella battuta che ha fatto, bella battuta che ha fatto, ma brava. Per favore, bella battuta. Legga in classe il libro Non sono razzista, ma la xenofobia degli italiani. Non sono razzista, ma lei è esattamente questo. Però Fiorella, andiamo a legga in classe il libro di Manconi. Perché hai chiamato? Perché è sola, perché è una donna sola. Non questo sono sola, guarda, ho un compagno meraviglioso, non sono proprio per niente sola, solo sei tu, poveretto. Allora, volevo questo dire, io ho avuto purtroppo un'alunna di prima elementare, musulmana. Sentiamo. La quale veniva a scuola con il velo, con il non velo. Quello integrale. Allora, cosa terribile, allora io l'ho invitata in classe perché gli amici la deridevano. Dico, guarda, toglilo. Ha fatto questa violenza, questa bambina. Io la denuncia, la bambina pianto e ha detto, Invece di chiamare i genitori, questa deve essere sospesa dalla scuola pubblica. Questa è un crimine che insegna. Certo, ha perpetrato una violenza nei confronti di una bambina. Ha pianto perché lei è un insegnante fascista, per quello ha pianto. Ma lo sentite cosa? No, calma. Lei ha fatto togliere il velo, poi? Lo può zittire un attimo, per favore? Sì, sto cercando di fare del mio meglio, vai. Allora, io dicevo, siccome la bambina veniva derisa dai compagni, ho detto, guarda, mettilo lì dove c'è il cappottino, no? Sì. E ha detto, non lo posso togliere perché sennò papà si arrabbia, mi dà le botte. E poi che hai fatto? Chiamare i genitori, appunto. Ah, no, allora gli ho detto, guarda, parlerò io con mamma e papà. Ecco, figurati. Ho parlato con il babbo e mi ha detto, lei è una donna, anche se una maestra è una donna, e da noi le donne non contano niente. Grave, molto grave questa cosa. Allora io ho detto, e senza fregarmene, perché per fortuna avevo un dirigente intelligente, dico, guardi, qui lei è in Italia, le donne vengono rispettate, siamo alla pari, se le conviene è questo, altrimenti tornate a casa vostra. Bello, brava, ha fatto bellissimo, ha messo, brava. Se l'episodio è vero, brava, contatto. No, lei non conta niente perché lei non conta nulla, semplicemente perché è un insegnante che si dichiara fascista, quindi per me non conta nulla. Allora, e non dovrebbe neanche insegnare per me. Allora sei ignorante, non perché fascismo donna. E nazismo sono due cose diverse. Grazie. Sei un ignorante. Grazie. È reato dire anche comunismo. Ignorante, è reato dire comunismo. Mi dai il nome della scuola dove insegna, per cortesia? Usano fioriere a Udine come latrina di giorno, di notte, in presenza di anziani. Stai dicendo immigrati che pisciano, immigrati che pisciano. Sì, di giorno davanti ai bambini, cari fratelli, come li chiama quel deficiente. Il signor Parenzo ha tanto di giardino, usatelo come cesto. No, non ce l'ha. Sì, ce l'hai, il terrazzo. No, ho un terrazzo grande, ma non un giardino. Giardino di Parenzo. Non ho un giardino. Usatelo ho un terrazzo. Allora non ho un giardino. Sa la differenza tra giardino e terrazzo? Il cesto di casa tua. Ciao, ciao Fiorella, ciao, ciao. Amici miei, la prossima volta che vai al bordello in Austria, voglio andare con Giovanni da Reggio Calabria. Io e Giovanni da Reggio Calabria, oh welcome! A così quando arrivano i troie, seduti, Carme Giovanni, che dici, voglio trombare una zozzona ibrida, come Macron, dissi ibrida, come Macron, o ibrida, come Macron, voglio una mignotta ibrida, come Macron, ibrido, come Macron. Caro David, vogliamo capire che cosa succede dentro il campo Rom di Castelromano? Cosa accade dentro il campo Rom di Castelromano, dove c'è la nostra amica Sabaeta? Si parla di ragazzi pieni di scabbia, bambini, zozzure incredibili, la solita tragedia. Cosa dei campi Rom che andrebbero chiusi. Chiusi. Allo? Pronto? Sì. Sabaeta? Sì. Come va? Siamo dalla radio, buonasera. Buonasera. Come stai? Oh. Ma è normale, non vi siete dimenticati di me. No, no mai, per carità. Cara. Come va? Mai. Stai lavorando, Sabaeta? Male. Sempre male, bravissimo. Male perché hanno bambini preso una malattia. Molto grave. Cosa? Cioè la scabbia. Scabbia pieno, donne, uomini, bambini. E poi cadono capelli di cani, di topi.

No, le pul- no, come sì, sì, io... le pulizie sì. Le pulizie sì, a casa Parenzo. No, ecco, io, è perfetto. Io, tu, già, tu sei no, io le già pulizie una, ho una a casa Parenzo. Ah no, ho già la Roma tata, non la vuoi. La Roma no, non chi la l'ha vuoi. Detto? La Roma ho già con la scabbia e con i bidocchi non la vuoi. No, ma che scabbia, ho la tata. Andresti ad abitare nelle casette del comune? Nelle casette? Sì, perché no? Certo. Subito esco da campo col mio figli. 800 euro dal comune li piglieresti tu, no? 800 euro per per che mi danno una, basta che mi danno dove posso vivere con i miei figli. Senti, ma con... quanti ladri ci sono in quel campo secondo te? Beh, nel campo tuo? Sono, ci saranno. Sono, ci sono ladri, ci sono che non sono ladri, ti dico tutta la verità. Quanti ladri? Quanti ladri ci sono in quel campo? Quanti? Ma ci sono! Quanti non criminali? Non so contarli. Tanti, sono tanti, tanti, tanti ladri che rubano soprattutto. Sì, cosa rubano? Portafogli. Ascolta, un portafoglio non è una vita, basta che non va a ammazzare persone. Va bene, ciao. Ti dico la verità. Sì, ciao Sabeta. Bene. Ciao, ciao. Ciao cara. Ciao. Ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. Sì, però non siamo ipocriti, non facciamo gli ipocriti, capito? Perché questo l'ha detto, è verità. Non ci è riuscito manco zio Adolf, come bisogna fare? Poi, perché tu i vuoi in Italia, i rom, Cruciani, i vuoi in Italia i rom, eh? Com'è, da Romania hanno cacciati, invece noi si riteniamo. Perché? Perché c'è sta quella testa di cazzo internazionale che li difende, quella testa di cazzo internazionale di Parenzo. Io invece li voglio fuori dall'Italia, perché mi hanno rotto il cazzo, mi fanno schifo. Vabbè, com'è? Un giorno a griglia e un giorno a polli vai. Ma fatela finita, andatevene a fanculo tutte e due. Ha detto bene l'assessore Torghieto, ha detto bene, ha detto bene. È ritornato lui, è tornato il camionista che io chiamo, com'è che si chiamava questo? Quirino. Signor Quirino, quanto ti piace? Mi è arrivata la traduzione però testuale che mi ha fornito l'amico Abdallah Kabakebji. Scusa. Aspetta, poi me lo dici. Sì, no, perché... Quirico Cruciani, Quirico, no Quirino. Quirico, scusami. Per cazzo. Ma com'è? Sempre un giorno te fanno schifo, un giorno vanno bene. Sempre i Rom. Con un eloquio, sempre con un che eloquio c'entra puntuale. Col fatto che io voglio chiudere i campi Rom, col fatto che ha ragione zio Adolf. Che cosa cazzo c'entra? Chiudiamo i campi Rom. Allora io ho fatto una domanda. L'ho fatta tanto tempo fa. Quirico, è una domanda. Io ho un sacco di amici ebrei. Ma figuriamo. Prima di tutto, grandissima testa di cazzo internazionale, non mi interrompere, state zitto. Buonasera, intanto, capito? Buonasera a cazzo, state zitta, capito? Buonasera e benvenuto, buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte, buonasera. Prego. Abbiamo il primo cittadino che vuole fare una riflessione. Allora, siamo a Radio 24, prego, vuole fare una riflessione sulla giornata di oggi. Aspetta, prego, dica, buonasera. Come rompe i coglioni questo, mamma mia. Buonasera, buonasera, allora, benvenuti dalla vostra fare parte. Allora, come mai tutti quanti ce l'hanno con i fratelli ebrei nel vabbè, adesso mondo? Che c'entrano gli ebrei? Come mai? Fammi finire la domanda. Chi? Ma che domanda come è? Mai tutti no, però, quanti ce l'hanno va con bene, i fratelli rom ma nel non tutti mondo? Quanti chi? Ah, i rom. Andiamo sui rom, andiamo sui rom un attimo. Io voglio capire una cosa. Ha detto bene allora l'assessore di Orvieto, secondo te? Ha detto bene che devono andare a fanculo. Vabbè, un linguaggio spiccio, immediato. Io però dico una cosa, Quirico, scusa. Io di una cosa a Parenzo. No, Parenzo non vuole sentire, non vuole sentire le sue riflessioni. Qual è la fortuna di che non mannero via i rom e non mannero via i migranti. Ma questa l'hai già detta però. Ancora, fame. Ma che cazzo fai? Giornalista della televisione e della radio. Ma quale cazzo è sto scoop giornalistico che hai fatto? A giornalista per cazzo, ma che giornalista sei? Dunque, caro Quirico, vorrei, vorrei interloquire con lei, caro Quirico. Aspetta, Quirico. Ma non ho mai visto mai un articolo. Come stai? Sei Quirico, aspetta. Sei alto un cazzo e mezzo in foglio di carta velina. Come stai? Calocchio a palloncino come il bradipo, Sid. Ma lei che faccia c'ha, scusi, invece? C'ho una faccia che si temeredi, mi metti paura. Mamma mia. Che certo non c'ho una faccia da cazzo come la tua. Ma che hanno fatto a casa tua? Hanno tolto gli specchi, hanno fatto a casa tua. Che hanno fatto? Ma che hanno fatto a casa tua? Ma ti hanno tolto gli specchi a casa? Si spaccavano da soli gli specchi a casa tua, eh? Quando tornavi a casa, ammazza, no, che brutto, no, che questo. Non so, io sono Quirico. Ma ti sei mai specchiato? Ma che ti hanno fatto a casa? Quirico, io voglio capire. Però è bello, passi lunghi e ben distesi, non è male. Però il signor Quirico, signor Quirico, ma proprio distesi, capito? In modo che ci va piano piano, tranquillo, ci va meglio. Io, dai, però diciamo la verità, Quirico, dai, secondo me, secondo ma me... tu ci sei mai passato vicino al campo rom de Castelromano, Cruciani? Sì, sì, con la macchina ci sono passato, sì. Ecco, io ci passo tutti i giorni col camion. Allora... è uno schifo. La notte ti tirano speriamo lui che te lo portino via quel camion. Dunque, che bisogna fare? Ha fatto bene a tirarti i sassi. Ma no, niente, fatto lì bene proprio fai uscire tutti quanti, sì. Bambini, sì. Rom, tutti quanti, sì. Poi una ruspa, sì. Tutti giù tutto quanto. Vabbè, e poi ognuno se va a trovare da dormire sul camion. Sul camion tuo vengono a dormire. Perché io gli devo pagare le tasse. No, ma tu non gli paghi niente a nessuno. Sul camion tuo vengono a dormire. Sul camion tuo. Tu e da sequestrarti il camion e darlo ai rom che lo usano meglio. Perché non vuoi parlare come fai? È reciproco, caro. Perché è reciproco. Ogni volta che parla mi fa il suo stomaco. Ma come fai a casa tua? Come fai senza specchi? No, capisco perché li avete tolti, però. A casa mia. Ma come fate se senza specchi a casa tua? Che ce n'è tanta di monnezza. Come fate? Che se a casa mia c'è una palla per tirare fuori la monnezza. A casa tua c'è una palla meccanica, capito? Fatte i cazzi tu a casa tua. Abbiamo sentito. E non mette in mezzo la gente che non sta qui per la gente. Basta una G. Ma basta una G però la gente. Basta una G sola, sai. Che te venga a cercare per davvero, sì. Mamma mia, che paura. L'intervento mamma mitologico mia. Di Quirico. Ciao Quirico. Quirico, ciao. Chi sei, Cruciani? Ah, i fenomeni, oh, i grandi fenomeni. Bravi, complimenti. Che vogliamo fare, parolacce? Vogliamo fare, che vogliamo fare? Quando una persona del pubblico chiama e dice buonasera, vi fa un complimento, non lo deve trattare male. No, ma mi hai fatto un cazzà. Non sei buona, una persona vi tratta bene e voi ancora una volta arroganti. Se parla di fregna e Parenzo vuoi far filippino in un sassista un attimo, vattene a qualcuno al bagno, no? Hai capito, mone? Hai capito, mone? Capito, mone? Da dare un cazzo! Sono d'accordo, Cruciani. Agli italioti non interessa un cazzo della legge elettorale. Infatti tu non sei un italiano, sei un italiota. Eccoci qui, Vittorio Feltri con noi. Ciao Vittorio, ciao ciao. Ciao, ciao, un saluto a tutti. Come stai? Molto bene, molto bene. Un trionfo. Un trionfo, meno male, sempre un trionfo. È pazzesca questa cosa qua. Cioè, abbiamo avuto due persone di 75 anni che sembrano molto più vecchie di te in realtà, nello spirito, però comunque presenti, presenti, che ancora a 75 anni dopo 51 di matrimonio, 51 di matrimonio, è una roba da perversione mentale, diciamo. Due persone che stanno sempre insieme dopo 51 anni e che hanno avuto una vita praticamente, no, da quello che sono riuscito a capire, molto... simbiotica, no, simbiotica. Simbiosi, c'è una perversione, no Vittorio, in questa cosa qua, cioè non è possibile. Ma guarda, se è una perversione ce l'ho anch'io, perché sono sposato da 50 anni, non 51 ma 50, il che diciamo non mi ha procurato molti problemi, anzi mi ha consentito di risolverne. Cioè tu dici che il matrimonio serve soprattutto per una questione di out des, praticamente è una situazione in cui ci si può accomodare, dici, no? Tu ricordi l'ultimo rapporto sessuale con tua moglie, adesso senza mancare di rispetto? Mi ricordo perché l'Italia aveva vinto i mondiali. All'82, quelli dell'82, quelli dell'82. Evitiamo di dare delle date che potrebbero no, però quelli, immagino quelli dell'82, così a occhio, no? A occhio. 1982, ovviamente. 1982, beh, certo, ovviamente. Beh, quello, sì. Dell'800 ancora non c'è. Adesso potete dedicarvi insieme, ad esempio, all'accoglienza dei migranti, cioè visto che avete cresciuto dei figli, avete quello fatto delle cose straordinarie, hai guadagnato un sacco di soldi, puoi dedicarti a fare del sociale. Ma perché dovrebbe accogliere chiedo, i migranti? Sei tu che dovresti accogliere i migranti. Parole, che belle chiedo parole. Al direttore, cioè, chiedo guarda, al direttore. Io lascio tutti sì. i migranti a te, io non li voglio neanche vedere. Adesso però vi dico una cosa anche sì, simpatica, sì. La mattina del sì. sabato e anche della sì. domenica, quando esco di casa mi devo riempire le tasche che cerco di raccogliere anche durante la settimana, perché ogni negro, non si può dire negro, sì, ogni si può nero, dire, si può dire. Nero che incontriamo, Neger. Io essendo con mia moglie, essa mi costringe a dare un euro o due, qualche volta dice ma come sei tipico, dagliene tre, sì. a tutti i negri che incontriamo. Quando rientro in casa ho le tasche tutte vuote, ma a me non è che mi stanno antipatici, basta che non mi vengano diciamo in casa, che io non è che ce l'ho con i migranti, ce l'ho con la mancanza di una disciplina che regoli, sì. che regoli gli arrivi. Ma qui alla fine glieli dai i soldi? Ma io gli dico, no, ma certo, ma cosa vuoi che me ne porti di dare qualche euro dei poveracci che poi aiutano mia moglie anche a trascinare il carrello del supermercato? Questo è buono, sì, questo è buono. Io non esco dalla macchina, io l'aspetto lì, lei si fa aiutare dal negro, si porta. Ma come? Sì, il negro cosa fa? Se vuole l'euro. Ma vai tu, scusa, fa. Direttore, dagli una mano no, tua. Ma vai tu, ma vai tu. Ma io no, mica è mia moglie, scusa, mica è mia appunto, moglie. Se non è tua moglie che te frega a te se io lascio andare il negro, ma non so, non capisco perché tu ti occupi dei cazzi no. miei. Cioè, avvi pazienza. Ha ragione Vittorio, scusa, stai in macchina e non gli voglio andare al supermercato, scusami, perché andare al supermercato è volgare, immagino. Ma Vittorio, per galanteria, uno va per galanteria, le spinge il carrello alla moglie e poi carica e carica sì, le cose in macchina. Ma falle tu, non pretendere che le faccia anch'io che sono diverso da te. Io sono democratico, tu sei un comunista del cazzo. Cioè, scusa, vogliamo parlare del fatto che andare... ti immagini Vittorio che va al supermercato... che va al supermercato a spingere il carrello della moglie con la spesa. Ma dire, una sei scena scemo. Meravigliosa, no, una scena stupenda. Ma come? Mi pare un gesto anche di grande galanteria, anziché trovare il ragazzotto di colore a cui... Sembra, ma neanche gli inglesi con gli indiani, neanche gli inglesi con gli indiani trattavano così, guarda. Ma perché me frega degli indiani? Tu vieni sabato con me, andiamo tutti a fare la spesa, tu aiuti mia moglie col carrello, così sei contento e l'euro lo do a te. Ma non è mia moglie. Scusa, invece di spingere punto. Il carrello, non è meglio dare 2-3 euro a qualche, come dice, sì, per come carità, qualche neger che sta lì al supermercato? Scusa, è molto meglio. Uno fa opere di bene più di te, che non vuoi la Roma a casa. Ma no, io ho già una persona che collabora e vive con noi, quindi non c'è. Ma io non riesco a immaginare Parenzo che si toglie dalle tasche un euro, visto che lui ha le tasche piene di piranha che come mette le mani in tasca gli vengono divorate. Quindi ecco perché lui fa tutti questi discorsi. Dai zucchero, non si molla un cazzo, siamo tutti con te. Zucchero la la la la la. La zanzara. Ha più morti innocenti sulla coscienza Totò Riino o Emma Bonino. Ragazzi, ancora queste parole mi rimangono in testa. Comunque andiamo a Pistoia, dove Don Biancalani, quello che ha portato gli immigrati in piscina, e nella sua comunità c'è una mela marcia, pare, uno che si è messo a spacciare. Come la mettiamo, sì. Don Biancalani? Chiamiamolo, vai. Don Biancalani, il prete di Pistoia, quello criticato dalla destra, secondo me hanno anche sbagliato a criticarlo assolutamente, per avere portato i preti, gli immigrati in piscina, eccetera. Meno male, va, meno male, su. Pronto? Sì. Don Massimo, buonasera. Ciao, buonasera. Qui Radio 24, salve, buonasera. Don Massimo, allora, hanno trovato questo ragazzo, di che nazionalità è? Questo che hanno trovato? È un ragazzo nigeriano. Nigeriano, con diverse bustine di marijuana, mi sembra. No, calma, che diverse bustine? Allora, due bustine, non so di quanti grammi. Cioè. No, io penso sia sostanzialmente per un uso personale. La questura ha valutato che invece possa esserci anche una dimensione più di spaccio, però si sa che in questi casi tante volte i ragazzi per diciamo guadagnare, per arrotondare la canna, e quindi anche magari vendono qualcosa. Cioè, scusi, la non questura voglio giustificarlo, l'ho presa a pedate nel culo, chiaramente, però ho capito, quello la questura dice spaccio e lei dice che è uso personale, scusi, come fai? Non è che ha trovato 10 kg di marijuana, cioè, nel senso, il ragazzo insiste, ancora ho visto piangendo, che tra l'altro poverino ha avuto un'espulsione dalla un decreto di espulsione dalla provincia, quindi lui è costretto nelle prossime ore a andarsene dalla provincia di Pistoia. Vabbè, ma è normale questo qua, scusa, un po' ipocrita, sinceramente. Esatto, però. Bravo, sì, ipocrita, bisogna fare una campagna per tenerlo a Pistoia. Scusi, Don Massimo, che significa ipocrita? Cioè uno cioè, che nel qui... senso, se Massimi va a Prato, questo ragazzo sta alla stazione, esatto, che politica è? Che lo cosa perdiamo. Cambia? Perlomeno io l'ho parrocchia, lo seguo, gli do una capata, gli do... Lo tengo sotto chiave. Però scusi, Don Massimo, io le spiego meglio nelle mani di Biancalani piuttosto che nelle mani di nessuno. Biancalani è un grande aiuto sociale, fa quello che dovrebbe fare lo Stato. Però questo scusi, va detto, Don Massimo, scusi un attimo, io le spiego semplicemente come secondo me la pensa un italiano normale. Ma ecco, italiano normale. Le dico questo di questi imbecilli che chiama qui. Stiamo tutti con Biancalani. Questo signore è tecnicamente un clandestino, no? Una persona ancora senza. No, lui è richiedente asilo. È richiedente asilo, quindi ha già avuto l'audizione alla prima territoriale. Tecnicamente ancora non è uno che ha ricevuto l'asilo politico, è uno che ha chiesto asilo politico, giusto? Anzi, vi dirò, questo ragazzo riceverà comunque il permesso di soggiorno, perché viene da una zona della Nigeria, il Biafra, una zona anche poverissima. Ma ho capito, sono perseguitati perché sono in gran parte in maggioranza cattolica, quindi secondo me riceverà 2 anni per motivi umanitari. Comunque, adesso, ad oggi, è ancora un richiedente asilo, cioè tecnicamente uno che è arrivato qui in maniera illegale, o no? No, come? Cioè, no, lui è arrivato in Italia... illegalmente? No, come illegalmente? E come è arrivato in Italia? È arrivato con i barconi, i gommoni. Che è normale, secondo me. Non è arrivato... illegale. È come da arrivare illegale in aereo. Aereo. Scusi, bravo, mi piace il fatto che lui... poveracci. Che lui rifiuta il termine della illegalità. È arrivato, ha ragione, bellissimo. Sì, d'accordo, io sono d'accordo che è arrivato. Che sia arrivato... tutti vanno in aereo come te. Quello, giustamente, poverino, prende... Devi ringraziare che si è salvato, anzitutto, bisogna dire. Grazie di esserti salvato. Don Massimo, però... vogliamo dirlo che è arrivato illegalmente in Italia? Perché ma non si può dire? È arrivato, punto, ha ragione Biancalani, è arrivato. Ma se lo Stato italiano non decide di ha eliminato le quote che c'erano fino a 5-6 anni fa, questi come fanno a entrare? Ma non è che dobbiamo accogliere tutti quelli che sono poveri? Non è che si deve raccogliere, ma voglio dire, i movimenti ci sono, voglio dire, vogliamo pensare e dunque accogliamo tutti le barriere. No, abbiamo bisogno di loro, anzi secondo me quando arrivano sui barconi dovremmo lì alzare le bandiere e salutarli, benvenuti, perché avremo bisogno di loro. Bellissimo, noi abbiamo bisogno ogni anno di 100-120 mila persone, perché siamo in decrescita. Dunque lei dice chi lavorerà nelle fabbriche, chi andrà nei campi qui a Pistoia a levare le piante d'inverno sotto la pioggia. Dunque lei sta dicendo che tutti i barconi che vengono qui dovremmo accoglierli con le bandiere addirittura. Allora noi abbiamo bisogno certamente. Allora torniamo al punto di partenza. Questo signore nigeriano è arrivato con un barcone illegalmente, secondo me illegalmente. Secondo lei invece è giusto che sia così? Va bene, è arrivato. Dopodiché si è messo a spacciare. A mio parere va spacciare adesso. Così dice la questura. Allora lui è un anno e mezzo che è qui, finora ha risposto a tutti i doveri a cui deve rispondere, ha partecipato a tutte le iniziative. ha fatto, faceva la scuola spese d'italiano nostre, a spese nostre, eh. A un certo punto ha deciso, certamente sbagliando, faceva un errore, di intraprendere questa scorciatoia. Ha spacciato, ha iniziato a spacciare. E a chi vendeva? No, a ragazzi, allora, figli della buona borghesia. Ma perché questi blitz li fanno sempre nei giardini dove questi ragazzi africani si ritrovano? Perché non vanno in centro a Pistoia il sabato e la domenica con i cani antidroga? Perché non vanno? Sono entrati nel canonica con i cani antidroga. Ma stiamo scherzando? Ma perché lo fanno, allora, secondo lei? Perché fanno andassero al liceo classico di Roma, lì al Virgilio, come si chiama lì? Perché lo fanno? Il problema delle tossicodipendenze non si risolve comunque con la polizia. Questo vale, vale per gli africani e vale per gli italiani. D'accordo, perché vanno a colpire allora questi qua, secondo lei? Perché ora c'è il vice, lo straniero, il migrante, è la ragione di tutti i mali del mondo. Dunque la colpa è della destra. Qui c'è una nuova amministrazione di centrodestra. Da quando c'è questa nuova amministrazione di centrodestra, ogni tot giorni c'è un blitz nei giardini. Dunque l'ha detto lei, questo signore qua, che secondo la questura spaccia, poi vedremo, e che comunque era in possesso di dosi non consentite di marijuana, e secondo lei non va tolto il permesso, cioè non va chiusa il percorso per chiedere l'asilo politico e va rimandato in Nigeria? No, la legge vale per tutti in questo senso. Lui c'è avrà una punizione, non lo so. E secondo lei va accolto lo stesso? Secondo lei va accolto lo stesso questo qua? Secondo me va data anche a lui la possibilità, certamente, di... Cioè va accolto lo stesso in Italia? Va accolto lo stesso in Italia nella misura in cui certamente cambia strada e non ripete questi suoi comportamenti negativi. Lei sarebbe contento se questo signore qua fosse accolto in Italia come rifugiato politico, ma giusto? Sarà accolto, perché non c'entra niente la roba. Infatti, sarà probabilmente accolto perché viene... Ma questo lo dite voi? Zona dell'Africa dove ci sono conflitti. Ragazzi, non possiamo accogliere tutti quelli. E allora perché non espelliamo anche i ragazzi del liceo classico di Roma che hanno fatto i festini lì con la droga? Espelliamo quelli anche, no? Lei pensa che i confini vadano aboliti? I confini degli stati? Sono aboliti, cioè in gran parte sono aboliti. Ma perché, scusi, noi italiani possiamo andare nelle zone dove questo ragazzo è cresciuto, cioè il delta del Niger, andiamo lì e devastiamo, inquiniamo... Si possono muovere capitali in tutto il mondo in pochi secondi e le persone non possono, vuol dire, passare da un confine a un altro, una nazione. Cioè la colpa è nostra, secondo lei? È la globalizzazione, l'abbiamo voluta noi. Ho capito. È la globalizzazione. Dunque, per però colpa... Noi giochino è bellino per noi, per noi vogliamo la globalizzazione della finanza, dell'economia, ma non della migrazione. Ci piace avere la maglietta t-shirt a 5 euro, però quando arrivano negri dall'Africa non si vogliono. Scusi Don Massimo, ma lei è a favore della legalizzazione della droga? Allora, io sono per la legalizzazione. Cioè, secondo lei farsi una canna non è... Cioè, tra farsi una canna e bere un bicchiere di vino non c'è tanta differenza, per esempio? Cioè, uccide più l'alcol della droga? Ma io, in realtà, ecco, si parla di canna, in realtà la vera canna oggi per tanti ragazzini, tanti giovani, è l'abuso di alcol. È l'abuso di alcol, più pericoloso sicuramente. Beh, sì. Certamente è un dato di fatto. Grazie Don Massimo. Grazie. Arrivederci. Ciao, avanti, mi raccomando. Ciao. Comunque, ragazzi, è incredibile, cioè è nemmeno ad ammettere che uno arriva in Italia illegalmente, cioè arrivare con i barconi è normale secondo questo prete, è uguale, secondo Parenzo anche, beh, è uguale, identico, non è uguale, e poi normale. No, è normale, è va una bene. Tragedia, poi, perché dovrebbero arrivare in sicurezza, sì, in sicurezza è una tragedia, portiamoli, che molti certo. arrivino con i barconi poi, e poi muoiono in mare, poi, seconda, è cosa, tragedia vera. Seconda cosa, tragedia vera sono le bare di Lampedusa, amico mio, uno si mette la a spacciare, vera sono le, uno bare, si le mette... bare bianche, sì, che contengono, sì, i bambini, quella sono la tragedia. Uno poi si mette a spacciare, si mette a spacciare anche, d'accordo, nonostante questo, va bene, accogliamo. No, ma non, ma è chi ha detto Pablo che Escobar, dai, su, ragazzi, è un piccolo spacciatore che infatti giustamente è stato colpito dalla legge, ma non per questo non ha diritto ad avere la protezione, ma scusa, internazionale, ma sono due temi distinti, devi imparare a distinguere, rimandarlo in Nigeria, ma non lo puoi rimandare in un paese dove c'è una guerra civile. Ma ci sono gli accordi di Ginevra, ci sono il diritto internazionale, i diritti umani. Io capisco che sono una minoranza a dire queste cose, ma... David! Il segnale orario vi è offerto da... Rive, rassegna di enologia e viticoltura, 12-14 dicembre, Pordenone Fiere. Sai che ci sarebbero tanti contributi a fondo perduto per la tua azienda? Certo! E come fai a ottenerli? Per questo c'è Gruppo Finservice, che mi fa avere tutti i contributi a fondo perduto che mi spettano. Grazie a Gruppo Finservice ho smesso di perdere contributi e da allora voglio solo il numero uno. Chiama anche tu Gruppo Finservice allo 0376 36 97 11 o visita il sito gruppofinservice.com per affidarti al leader della finanza agevolata. Edo, cosa regaliamo a papà per Natale? Una sciarpa. Gliel'abbiamo presa per il compleanno. Un dopo barba. Già fatto per la festa del papà. Delle pantofole? Natale 2015. Ce l'ho. La carta regalo Trenitalia, così parte per Capodanno con mamma e ci lascia a casa libera. Questo Natale regala carta regalo Trenitalia per far viaggiare chi ami in tutta Italia. E fino al 6 gennaio, acquistando una carta da più di 100 euro, hai un buono sconto per te da 20 euro. Acquistala in agenzia, in biglietteria, nei principali supermercati e media store. Info e condizioni su trenitalia.com. Ho solo cliccato un link. Un gesto abituale può mettere in ginocchio la tua azienda. Gli attacchi informatici aumentano di ora in ora per numero ed efficacia, minacciando business e continuità operativa. Proteggi il tuo lavoro con Kaspersky Lab, l'azienda di cyber security più premiata al mondo. 400 milioni di utenti hanno già scelto l'affidabilità di Kaspersky. Vai su kaspersky.it o contatta un nostro partner. Ciao, siamo Andrea e Tonino Guidi, artigiani della qualità. Sai che ieri sera per addormentarmi ho contato le pecore? E a quanto sei arrivato? A una, ero su un divano letto dei nostri. Doppio sconto dell'IVA in poltrone sofà. Non paghi l'IVA e hai un ulteriore 22% di sconto. Termina domenica. Poltrone sofà, artigiani della qualità. Pensare, immaginare, progettare, misurare, scegliere, allestire, pianificare, costruire, rifinire, restaurare, conservare, recuperare. Poi ancora pensare, immaginare, progettare, misurare, scegliere, allestire, pianificare, costruire, rifinire. Nel lavoro non c'è spazio per i contrattempi. Per la tua azienda scegli un partner affidabile come Enel Energia, che ti garantisce contratti semplici, prezzi chiari e bollette trasparenti. Così sei sempre consapevole dei consumi e dei costi. Scopri l'offerta giusta per te. Vai su enel.it o vieni in uno dei nostri negozi. Enel Energia per il mercato libero. 01 Distribution presenta Mi dispiace tanto per la tua perdita. Saremo forti, ce la caveremo. Un film scritto dai fratelli Coen. È l'ultima volta che quel pagliaccio ci ignora. Ora devo prendere decisioni nell'interesse della famiglia. Matt Damon, Julian Moore, Oscar Isaac, Suburbicon. Un film di George Clooney dal 6 dicembre al cinema. Nel cuore della Lombardia c'è un territorio in cui vivono insieme tradizione e innovazione, origini antichissime e le migliori tecnologie. La Franciacorta, da cui ha origine il suo vino. Franciacorta festeggia i suoi primi 50 anni dal riconoscimento della DOC. 50 anni di storia e passione che hanno dato vita a un prodotto unico ed eccezionale. Franciacorta, un vino, una terra, un'eccellenza italiana. Vai su franciacorta.net e scopri Franciacorta, una storia di passione. La Zanzara. Antonio Razzi. Antonio. Buonasera, buonasera. Come andiamo? Naturalmente a tutti i radioascoltatori di Radio 24. È ancora in dubbio la tua partenza per la Corea del Nord. Mi sembra di capire. C'è un colpo di scena qui. Cioè, dopo tu hai detto io farò il mediatore nella vicenda delle, no, tra l'America o l'Italia e la Corea per la tua conoscenza, i rapporti con la Corea. Poi adesso mi hai rivelato che c'è un dubbio sulla tua partenza. Qual è il dubbio? Ma il dubbio è che siccome arriva uno dei capi di Pyongyang e viene a trovarmi che sta facendo un giro in Europa, io gli chiederò, vengo lì, posso, con chi devo incontrare? Perché io voglio esporre il mio disappunto per quello che è stato facendo. Disappunto, tu vuoi andare in Corea a esprimere il disappunto ai coreani, ma quelli ti cacciano subito dopo due secondi, cacciano, amico mio. No, ma io appunto ti mettono in galera, come si suol dire, con quella bocca si può dire quel che vuole, ti ricorda la pubblicità. Io posso parlare, perché allora a me mi ascolta, anche se sbaglio il mio. Ma insomma, parti o non parti? Parti o non parti? Tanto quelli non lo capiscono l'italiano, che c'entra, ma parti o non parti? Parti, non ho capito. No, io in base agli incontri che devo fare. Ah, ancora in dubbio, la partenza è ancora in dubbio. Scusa, se vado lì solo per farmi una birra a Pyongyang e poi devo ritornare, ci devo pagare di tasca mia, devo spendere 5.000 euro, ma che cazzo me lo fa fare? Ma quanto ti costa sto viaggio? Quanto ti costa sto viaggio in Corea di solito? Circa 5.000 euro. Cioè di tasca tua paghi? Io. Paghi tu, di tasca tua. Se il ministro degli esteri Alfano mi delega e mi dice, guarda, andò visti che tu conosci bene queste qua, vai a dire questo, è chiaro, e io gli dirò. La notizia è questa, caro ministro degli esteri Alfano, dammi una delega per andare a parlare con i capi della Corea del Nord, ma giusto? Ma quindi non te lo danno nessuno perché c'hanno tutto paura. Scusa, ma Alfano chi è più conosciuto? Lo conoscono in Corea Alfano? No, non lo conoscono secondo me. No, non lo sanno. Cioè in Corea del Nord Alfano non lo conoscono. Non lo sanno chi è. No, non lo sanno. Cioè, devono vedere sui libri, su internet, vedranno chi è il ministro degli esteri, e così lo conoscono. È più conosciuto Razzi, cominciamo però a dire che quella lì è una dittatura sanguinaria. Quello è un pazzo, un nano pazzo. Diciamolo. A dire così. È Ciccio pazzo, è Ciccio Kim. Questo non credo, No, questo non credo. Scusa, io voglio capire una cosa. Allora, tu vuoi un mandato da Alfano, ma sei più popolare tu o Alfano in Corea? Tu, naturalmente, no? Beh, in Corea io... Per strada ti riconoscono? Ma tutti. Cioè, tutte le persone ti riconoscono per strada? Ma sì, perché l'hanno visto sui giornali, l'hanno visto sulle televisioni. E che dicono quando ti incrociano per strada a Pyongyang? Che dice la gente? L'amico italiano. E siccome come lo chiamate voi... il dittatore Kim Jong-un, quando io gli ho detto e mi sono complimentato con lui perché manda i calciatori coreani in Italia a imparare la tecnica del calcio italiano, ma che c'entra questo? La musica e la nostra lingua e cultura italiana, ha detto poi questo è un grande italiano. Kim ha detto Razzi è un grande italiano. Questo è un grande italiano. Beh, questo è importante. Tu, se vai in Corea, non hai paura di questa storia qua delle bombe? No, assolutamente. Io, perché io se devo domare qualche bestia, sì. Loro non sono bestie. Deve domare una bestia feroce, non è che vada a domare un coniglio o una papera o una gallina. Ma non ho capito la metafora, cioè tu vuoi dire, io preferisco l'avversario un leone, una tigre, così magari ho capito. Lo devo domare e vedo se riesco con lo sguardo o con qualche mazzata, nel senso, ma non magari con un coniglio, cioè, con una preferisci andare a risolvere questioni serie, non andare a fare le cazzate qui, no. bravo, siccome loro, ma se guarda, ma se è l'unica guerra per il bene del mondo, come? Io vado per il bene dell'umanità, per il bene del mondo, per risolvere il problema. Ma scusami, capito, ma le bombe... L'unica guerra che io vedo irrisolvibile è quella che ogni minuto fa Razzi al congiuntivo e alla città. Ma quello lo sappiamo, non è una novità. Questa guerra qua. Che la vedo proprio... Però io voglio dire una cosa, Antonio, ma le bombe ci sono alla fine in questa Corea del Nord? Ci sono o non ci sono? Ma certo, ci sono. Sinceramente io non l'ho mai visto, però l'ho visto solo nella grande parata. Nella grande parata militare. Oh, dove c'avete le bombe? Dove sono le riserve? Ma le coreane come sono? Sono fighe o non sono fighe le coreane? Le donne sono bellissime. Le bombe ce l'hanno? Le bombe ce l'hanno loro o no? Almeno quelle le loro viste. Ce l'hanno pure le belle due bocce. Ah, ce l'hanno, sono ecco, ce l'hanno le bocce. Ecco, la tua ricetta contro gli stupri, per evitare gli stupri, hai visto che c'è questa cosa qua. Quale sarebbe secondo te? Calderoli dice che bisogna dare le pasticche. Ma guarda, lì stupri non ce ne stanno. No, assolutamente quelle niente. Ah, in Corea niente. Le donne vivono tranquille. Ma qual è una caratteristica oltre alla tranquillità che tu hai detto sempre? Qual è? Mi sembra che tu hai detto una volta che la gente cammina sempre dritta. Sì, camminano sempre. Forse sono magre per quello, camminano sempre, non sono mai ferme, sempre in movimento. Tutta gente veloce, non si ferma mai. Non si ferma mai, è difficile trovare. Cioè, camminano tutti dritti poi. Tutti, guarda, veramente non c'hanno mal di schiena, niente, camminano dritti, proprio tutti. Ma sputano per terra, no? Ma io personalmente non ho mai visto, non si trova un mozzicone di sigaretta, non buttano sigarette, niente. Niente, tutto pulito. Si mangiano pure le sigarette, ma insomma, bruttano? Qualche cosa sempre lo faranno, sai, quando mangia bene qualche rutto. Rutto lo fanno, i rutti li fanno. Al tempo dei maiali erano sospiri. Vabbè, caro Antonio, te saluto, va. Poi mi dirai se vai o no. Ciao, te saluto, un abbraccio. Va bene. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Parenzo. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. One of these days, these kids are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta La Zanzara. Davide, ci sei? Eccoci qua, eccoci allora, qua. Mi era andato sì, un attimo nel gabinetto pisciare, del sindaco. Mi hai mandato, no, mi hai mandato no, no, no, la foto con la tazza ufficio, del cesso imbrattata no, no, dalla no, tua pipì. Cioè, ero incredibile. Andato un secondo in ufficio, nell'ufficio affari legali, per capire, per consultarmi sulla vicenda della famosa professoressa che ha chiamato. Fiorella, sì. E quindi allora, ho consultato il mio ufficio legale. Benissimo. Allora, sì, adesso chiamiamo un personaggio che ti introduco in questo modo. Un personaggio di Pescara, sì, che si chiama Gianfranco Semproni. Semproni. E feci l'accompagnatore, che dissi anche alla tua signora quando mi ha fatto l'intervista, ho detto solamente la parola gigolò, mi è venuto in mente questo gigolò, sì. Però io ero un accompagnatore di donne anziane, era una struttura che prendeva dei giovani, comprendeva delle belle ragazze per andare con gli uomini, io dovevo accompagnare le donne, questi anziani che ne frega dei quadrini, per Roma, punto là, ti davano i vestiti, le scarpe. Poi tu però ti tiravi indietro. Ma no, poi siccome queste qua mi sono stupate, volevano portare per forza un letto, questi vecchi di 50 anni. Allora, vabbè, quando allora ma noi quando eravamo ragazzi, quando diceva una donna di 50 anni, per noi era vecchi, capisci? Oggi sono delle donne meravigliose perché sono palestrate, si aggiustano, si attrezzano, si fanno lo sene, le chiappe, quindi... Solo una cosa non ti piace. Mo, il adesso dramma lo sai qual è? Che se ti fina mano a uno di questi ti può rimanere una chiappa in mano, capisci? A chi è una mammella, un po' ingazzata e ti rimane una precoca in mano, non so, giusto dottor? Ecco. Curatissime, perfette in tutti... Sono perfette, ma non è come una volta. Lì dipende dal chirurgo. Giusto, e lo so. Però purtroppo... C'è il dottor De Blasio che si schermisce. E come mai, scusa, dottor De Blasio ride, si può fare le chiappe, lo sene, come mai non si riesce a fare le pertiche, un piselle come si deve? Ah, perché là è difficile, ah, ho capito, da poco. Chiamiamo Semproni, vai! Pronto? Gianfranco? Sì. Sono Cruciani, come stai? Discretamente, sono rientrato molto a fare la spesa, Cruciani. Senti, allora, ma che ne pensi di sta nazionale? Allora, la nazionale purtroppo sono dal 2006 che non facciamo più niente, non c'è stato rinnovamento dopo quel campionato del mondo, non è stato fatto niente, non hanno fatto niente, né a livello dirigenziale, poi come nazione non contiamo più niente in Europa, abbiamo un presidente purtroppo che secondo me deve andare con i nipotini a godersi la vita, a godersi le panchine, leggere il giornale. Sta vecchio, dici, no? Esatto, chi si fa ancora a mezza? Là ci vuole un manager come si deve, che sappia rinnovare nel vero senso della parola, non dei portaborse che sono diventati dirigenti per prendere gli stipendi, eccetera, eccetera. Il pallone va capito, va seguito, troppi stranieri nelle squadre italiane, troppi stranieri, perché bisogna trasferire i soldi all'estero, alle primavere ci stanno gli stranieri. Non esiste, massimo tre tra stranieri ogni squadra. No, e scusa, le giovanine devono essere fatte dai giovani italiani. Cioè, questo vuol dire è il concetto. Tu la pensi sono come Salvini? Sono naturalizzati italiani quelli. Che vuol ma dire chi italiani? Ma chi se ne frega naturalizzati? Io parlo di italiani e non mi fare discorsi strani. Che vuol naturalizzare? Italiano vuol dire nata a Pordenone, nata in Sicilia, nata sì, dove certo, ti pare. Certo. Quelli sono italiani. Gli italiani naturalizzati, con tutto il rispetto per loro, non esistono. Questo è il mio punto di vista. Se poi non lo condividete e non me ne frega un Kaiser. No, ma non è questo, eccolo, il punto. Sto dicendo una io, cosa. Scusami, posso dire una cosa? Sto sempre Samproni qui. Samproni. Ma vabbè, se non sai manco pronunciare il cognome. Semproni. Mi hai rotto. Come si dice? Semproni, i coglioni, mi hai rotto. I coglioni, oh, va esattamente, bene, caro Semproni. Allora, perfetto, signor pontificatore Semproni, io come non si sono pontificatore, io stavo parlando con un amico che io a te manco ti conosco, non sa ci manchi il cazzo sei tu, capisci? Parenzo, e non ti voglio conoscere, perché tu sei, capito, tu fa lo svelte sulla pelle di uno che fa l'ironia della vita, quindi lascia perdere. No, ma lascialo perdere, non fare così. Lo lascio perdere, ma non accetto il fatto che adesso attribuisca le colpe della nazionale agli stranieri, che non sono stranieri, ma peraltro sono italiani, che quei non calciatori. Hai capito, niente, non hai capito, non hai capito niente, ecco. Come al solito. Come io al solito non sto parlando degli stranieri affidati agli stranieri. Io ti sto dicendo che nelle squadre italiane bisogna mettere un tetto minimo, tetto? Anzi minimo tre stranieri per ogni squadra. Non puoi vedere la Roma con 11 stranieri, non puoi vedere l'Inter con 11 stranieri. Tu dici, scusa Giaffra, anche nelle squadre minori, nelle squadre più piccole, i ragazzi li portano tutti dall'Africa, fanno la tratta, la tratta. Tutti dal Senegal, da qua, da un sacco di stranieri. Tre stranieri per ogni squadra. Lui vuole mettere le quote del mondo globalizzato, vuole mettere le quote, lui, le quote. Nel mondo globalizzato arriva sempre un cino nostro. Non capisci niente, e parlavo con la trasmissione con la radio, mi fai una cortesia, sì, ma avete detto una fangura e di corse, che se ti tenesse qua presente ti farei una schiappa, una faccia piena di schiappi. Ha finito di pontificare, uomini veri, ma che vuol dire? Anche che sta pontificando, tu dai una mezza Recchi che non mi dice mai, complimenti vivissima. Ma che vuol pontificare qua? Ma che è volgare? Gianfra, un'ultima cosa, ma senti, tutta questa storia delle cose, tutta, 10 aspetta, minuti di intervista aspetta, con Semproni. Aspetta, tutta questa storia delle cose, tutta questa storia delle molestie e delle attrici che denunciano, che ne pensi? Ma cosa tu? Ne sa lui? No, no, ma perché prima? Perché non l'hanno denunciato prima, quando era il momento? Vabbè, cioè, perché non l'hanno fatto prima? Capirai l'originalità di questa roba. Io questo non riesco a capire, cioè tutto doping, solo per come fare gossip e per farsi un pochettino di pubblicità. Uno dice, guarda che io non l'ho toccata questa, lo dice la donna come una bestia, invece non è così, perché anche noi continuamente veniamo violentati dal loro atteggiamento, dal loro modo di vestirsi, dal modo di come agiscono, quindi non è che sono in che loro... senso veniamo violentati, scusa Gianfra, non ho capito, violentati a livello, cioè, ma tu non ci vai mai, io al ristorante eccetera eccetera, c'è una donna una volta, guarda, io spero che tu capisca questa cosa. Raccontami, qui che ti dico, una volta una donna sapeva cucinare ma non sapeva scopare. Oggi la donna di oggi sa scopare ma non sa cucinare. Questa ora buona, cerca di capire tutto questo. Raccontami sinteticamente, pensaci un po', è tutto questo, per me questa è la sintesi della cosa. La sintesi vera è questa: le donne di oggi non sanno cucinare ma sanno scopare. Sì, questo è poco ma è sicuro. Si sanno mettere ma in mostra, sta si sono ma va benissimo, ma perché dici che, perché dici che veniamo violentati noi? Perché in realtà subiamo una violenza continua. In che senso? In che senso? Dal modo di vestire, dal modo di agire, sono di una sprontatezza adesso che fanno paura. Cioè tu dici che questa cosa qui provoca anche la reazione violenta dell'uomo, tu dici? No, ma l'uomo non deve essere mai violento, deve essere sempre, deve sempre saper controllare, perché l'uomo purtroppo ha perso un sacco di strada, che la donna sessualmente è 100 volte più forte dell'uomo, non può competere. In che senso? Noi siamo il sesso debole e loro sono il sesso forte, e molti uomini ignoranti non lo vogliono ammettere questo. Ma in che senso è più forte? Spiegami concretamente. Più forte, cioè caro amico, cara amica, allora io ti posso dire, un uomo, io ti faccio fare una tripletta oggi perché sei forte e ti esci voglia, ti faccio fare un'altra tripletta il martedì, ti faccio fare un'altra tripletta mercoledì, giovedì io ti vengo a trovare all'ospedale che ti stanno a fare fleb. La donna fa 100 volte l'amore, si dà una sciacquata e rincomincia da capo. Ma questo è pazzo. Hai capito adesso? Ma cosa dice? Ma è così, la verità è questa, sessualmente la donna resiste molto più dell'uomo, non c'è dubbio su questo. Ma questo cosa c'è? Mica lo scopre Semproni. Tu non capisci, non capisci. Io capisco perfettamente. Questo non può capire i problemi seri, capisci? Ma io questi problemi seri spiegati da Semproni. Scusami, allora le molestie di cui allora digli a sta personaggio che la mia trasmissione, a parte che è seguitissima, ma se tu vai su YouTube, attenti, conosci nessuno. A Semproni Giovanni, 2 milioni, 3 milioni di gente a sentire le battute. Conoscono a Semproni. Solo che tu forse così, soldi. Non becco una lira. Ti io credo. Non becco una lira. Tu preferisci, per esempio, la donna col pelo o senza pelo? Questo è interessante. Col pelo, sempre col pelo, grande pelo. Che se mai. Fondamentale. Che non esiste più con tutte queste cose rasate, senza il pelo. Il parere di questo qui è fondamentale. No, ma io sono a favore del pelo tutta la vita, come Sgarbi. Pure Sgarbi è a favore del pelo. Sì, ma che razza di discussione. Anche Rocco Siffredi. Anche Rocco Siffredi recentemente. Ma con quelle cose spelacchiate, lascia perdere. Ma che discussione è? Ma cosa dite? Che discussione ma è? È? fondamentale il pelo, scusa, è fondamentale. Che discussione ma è io di una guardo... volgarità inaudita. Ma che siete? Volgarità? Ma non capisci niente. Quale volgarità? Vabbè, volgari siete. Ma il pelo ovunque o solamente sulla patonza? Sulla patonza, sulla patonza. Io sono contro le barbe, tu poi gente di 60 anni, 70 anni, se fa crescere un po' la barba un giovane ci sta pure, ma tutti gli altri che ste barboni che fanno schifo, non si può fa manca una leccata come se deve, lascia perdere. Ma cosa dici? Ma è di una volgarità, è proprio una persona di una volgarità irritante, terribile, terribile, terribile, esatto. Sono volgare perché dico solo le cose che si fanno, capito? Veramente, si fanno veramente di una volgarità inaudita quest'uomo. Puoi anche offendere, però io te lo dico, fa come te parli, se ti incontri ti faccio una faccia come un pallone, una faccia, il cappadone come una palla. Qua ci vuole la nerchia, qua ci vuole la nerchia. Beh, certo. Tu non si manchi che è la nerchia, tu non si manchi che è la nerchia, non manchi questo, sì, era solamente una battuta in un momento che stavo facendo, spiegando una certa situazione, quando un uomo andava con le donne, ci vuole, siccome siamo il sesso più debole, ho detto ci vuole la nerchia, ci vuole chiacchiere, certo, perché noi siamo il sesso più debole, capito? Ciao, già professor Sembroni. Ciao, d'abbraccio, ciao, d'abbraccio. Ciao, un abbraccio, ciao caro, ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. Non ti è ancora venuto il flash di rinnovare lo storage? Entro fine anno conviene. Con IBM Flash Storage, doppia velocità di risposta, tripla capacità con la compressione dei dati inline, meno costi di gestione, più affidabilità e sicurezza, rapido ritorno dell'investimento. IBM Flash Storage conviene. Chiedi ai business partner o visita ibm.com/allflash/it. Superammortamento e finanziamento 24 mesi TAEG 0%, salvo approvazione di IBM Italia Servizi Finanziari. Scade il 31 dicembre. Messaggio pubblicitario. Fogli informativi dai rivenditori. Guida assistita, connettività senza barriere, lusso svedese. Finalmente puoi lasciarti guidare. Volvo XC90 con Pilot Assist serie. Oggi tua a €535 al mese con leasing anche ai privati. Tasso leasing 1,90, TAEG 4,63, durata 36 mesi, 35 canoni da €535. Info presso punto vendita, salva approvazione Findomestic Banca, scade il 31 dicembre. Volvo XC90, made by Sweden. Iberdrola è arrivata in Italia. È leader mondiale nella produzione di energia rinnovabile ed è qui per te e per la tua voglia di verde, perché porterà a casa tua risparmio ed energia verde garantita al 100%. Vieni a conoscere tutte le offerte e i servizi su iberdrola.it oppure chiama all'800 690 908. Scoprirai che l'energia verde fa bene anche alla bolletta. Risparmia ora con Iberdrola. Iberdrola, tutta l'energia verde che vuoi. A Natale sono tutti più buoni. Anche MediaWorld, perché regali a Natale e paghi dopo Pasqua con il tasso zero in 25 rate. Anche su smartphone Samsung Galaxy S8 Plus a €699. Fino al 17 dicembre, messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, TANE TAEG 0% salvo approvazione della finanziaria. Solo da MediaWorld. La Zanzara. You are not an open book, I can't do nothing. Sai cosa c'è purtroppo? Sai cosa c'è purtroppo? C'è solo un piccolo, una piccola cosa che io non posso digerire, ma mi tocca digerirla per forza. Cominciare, tu a me non mi devi per il culo. Siccome che tu hai proposto la 7 Donato che fa 500-700 visualizzazioni, io ne faccio 18.000! Io ne faccio 18.000 con un video in un mese e mezzo! Giuseppe, ti volevo consigliare il miglior depressivo quando i medicinali non funzionano. È l'eroina! Ma che si fanno una pera, vedrai che non si ammazza più nessuno. Ragazzi, questo insomma adesso consigliare messaggio distorto, messaggio pericolosissimo. L'eroina, ragazzi, siamo alla follia più totale. Non possiamo mandare questi messaggi così devastanti, diciamo, alla società italiana. Però, grande ritorno di una rubrica che sembrava ormai dispersa. Che è quella degli indagatori dell'incubo, caro Parenzo. Oh mamma mia. Allora ragazzi, l'indagatore dell'incubo qui presente, Giuseppe Cruciani, e lo scettico di professione David Parenzo, questa sera

per difendersi. È logico, da che il ma mondo... da chi? Aspetta. Da chi, stracazzo? Da chi? Da chi? Dagli alieni violenti. Calma, no? Calma, prima. Dagli alieni violenti. No, alieni è tutto chiaro. Quindi, questi alieni violenti... si fanno? Ma non è chiaro niente! Questi rettiliani, come faccio io a riconoscerli per strada, per esempio? Io sono al bar, come faccio a riconoscerli? Dovrebbe avere una pietra anche lei, una pietra, però sì. Oppure dovrebbe essere un sensitivo. Questa pietra innanzitutto costa qualcosa, è cara, cioè si può acquistare? No, purtroppo allora le pietre quando pietra. Nel 2010 quando io l'ho detto purtroppo non sono stato ascoltato, adesso non si trovano più. Impiantano nel cervello qualche cosa, che fanno? Purtroppo una delle sevizie che fanno sì. è anche l'implantaggio, ma non è l'unico problema quello dell'implantaggio. I pianti microchip sottocutanei possono essere disattivati usando le metodologie di Nikola Tesla. Io sono schermato. Lei è schermato? Lei è schermato, meno male. Come è schermato? Male. Non ho capito. No, lei è da ricovero, allora, ma non importa comunque. Alcuni ufologi e no, lei ha alcuni problemi gravi anche, non ufologi. Hanno, siamo stati schermati. No, non siete stati schermati, siete stati rinchiusi in una struttura protetta e ogni tanto potete uscire. E questo è il momento dell'ogni tanto, quando Cruciani vi chiama. Scusi un attimo, ma non è che siete stati schermati, ma siete stati rinchiusi. La schermatura, in cosa consiste la schermatura? Scusi. Senti l'altra, allora, la schermatura non è una cosa materiale. Perché se fosse una schermatura materiale la potrebbero rubare. È una schermatura di tipo energetico. E lei come fa ad averla, scusi? No, ma perché me l'ha data uno che può dare? Il medico. Il medico somministrandole la solita terapia. È un percorso iniziatico. Ma non è un percorso, è una come cura. Iniziatico? Allora, è una cura, non è un percorso, è una cura. Sì, una cura che deve seguire ogni giorno lei. No. Lei di mestiere che fa, scusi, Tenan? Io sono tecnico informatico, ufologo. Io sono un perché si presenta come ufologo come allora? Hobby. Ah, come hobby. Hobby, capito Parenzo, come hobby ufologo. No, ho capito tutto io. Dal profondo del cuore, quello che lei chiama iniziazione all'ufologia, in realtà è null'altro che una terapia accuratissima che il primario di medicina, di psichiatria, le sta somministrando. Ora, va benissimo che lei dica questo, che è stato schermato. Non è stato schermato lei. Lei è sotto cura psichiatrica, questo è il punto vero. È passibile di denuncia per questo. Ma, arrivederci. Io mi meraviglio che una radio debba avere bisogno di questi personaggi. Questo comunque, se vuole mi chiedo fare anch'io di delle questo, domande, io sono per delle altre domande. Arrivederci, professore, grazie di tutto, grazie. Allora, le grandi inchieste della Zanzara continuano. Questa volta scende in campo proprio lui, amici miei, il nostro rabbino preferito. Il nostro rabbino preferito, il signor Shlomo Becor, che ci illuminerà, certamente ci illuminerà su una pratica, a mio parere, barbara e medievale. L'abbiamo già detto, la circoncisione, il pisello tagliato. Che relazione c'è, per esempio, tra la circoncisione, il pisello tagliato e la potenza sessuale? L'appetito sessuale, le prestazioni sessuali. Ci illumina il rabbino Shlomo Becor, ribattezzato il rabbino della Zanzara. No, ribattezzato, non è come si fa a usare il termine battezzato con un rabbino? Sì, perché sì, perché voglio distruggere tutto. Vai. Eccoci qua. Pronto, rabbino? Pronto. Magnifico. Ci siamo? Ci siamo! Come andiamo, caro Rabbi? Shalom, grande Rabbi. Shalom. Carissimi, complimenti. Allora, devo dirvi che siete sempre in gambissima, però ormai la vostra trasmissione è diventata una trasmissione dedicata ai minorenni di 14 anni, perché se ci sono bambini in giro state esagerando troppo, cari amici. Bravo, ma non rabbino. È vero! Rabbino, scriva una lettera al Sole 24 Ore, rabbino. Ma non è vero! Spiegando che Cruciani è il nuovo Satan, come diciamo noi, cioè Satana. Ma non è vero. Sì. Ma... Sì. Ma come si cosa? Bravo, cosa? Il mio unico dubbio se è vietato ai minori di 14 o di 18 anni. Questo ancora bravo, non l'ho Rabino. Deciso. Ma non ha deciso cosa? Non l'ha deciso ancora. Ma siamo al pazzimento. Ma dai, su. Se c'ho bambini in giro, voi con sto squirting, sto stesso. No, si dice se qui come fanno i bambini qua a sentire stesso qui. Rabino, non dica anche lei questa parola. Rabino, si dice squirting, no squirting, squirting. Adesso devo andare a purificare, solo per aver detto una parola del genere, mamma mia. Ma che purificare? Ma qual è il problema se lei dice squirting? Rabino, lei è un uomo di mondo. Ma è un rabbino. Allora, caro rabbino, la circoncisione. Per me resta una pratica no, assolutamente medievale. Una pratica feroce nei confronti dei ragazzini, dei bambini che vengono costretti senza la loro volontà. Risponda a questa cosa a una persona laica, una persona atea come me. Risponda nella maniera più credibile possibile. Allora, è normale che una persona non è circoncisa ha molto più piacere e questo da un certo punto di vista potrebbe sembrare qualcosa di positivo, di migliorativo. Cioè, allora, attenzione, chi non è circonciso prova più piacere sessuale? Certamente. Quando è coperta c'è il prepuzio, cosa succede? L'organo maschile è molto più sensibile, perché non essendo esposto, allora c'è molto più eccitazione, molto più piacere. Però è un piacere squilibrato, perché è posizionato in un posto e non è diluito in tutto il corpo, e poi è un piacere, diciamo, che porta all'eccesso. Cioè, tu mi stai dicendo che tutti comunque sono di norma abbastanza malati verso il sesso, cioè un po' troppo dipendenti. Incluso il nostro amico qua Giuseppe. Ma adesso questo che lei che ne sa, scusi caro rabbino, ti sente ogni sera, ma non è che possa rabbino. Anzi, vorrei sentirlo ogni sera, ma purtroppo a furia di queste esagerazioni sono costretto a minimizzare. Addirittura. A staccare, scriva. Vabbè, comunque rabbino, tu mi stai dicendo, una lettera ai vertici del Sole 24 Ore, la scriva, mi dia retta. Allora, scusi. Magari le sue parole la ascoltano. Scusa Shlomo, tu mi stai dicendo, per chi è malato di sesso, chi ha il sesso come fissazione, diciamo l'orgasmo, eccetera, la circoncisione può aiutare a guarire. Sì, certamente un po' meno piacere, però prima di tutto dà molto più performance. Ed ecco lì. Ma quello che ne sa lei? Ma no, ecco, lo dicono i medici. Ma non è vero, è una baggianata questa. Lo dicono tu i sei medici, invidioso. Lui è invidioso, Cruciani. A tutti i livelli. Cioè dura di più. E quindi dà più piacere alla donna. Con il circonciso, visto che il piacere è meno localizzato nell'organo maschile, è più diluito, e allora c'è meno eccitazione solo lì, che uno subito all'eiaculazione è più tranquillo, riesce più a allungare, diciamo, più performance. Con la circoncisione dura di più. Se volete durare di più, non prendete le cremine, non prendete tutte quelle cose che vi propinano i siti internet. Circoncidetevi, dice il rabbino. No, però è in contraddizione con il caso Weinstein. Weinstein è ebreo, dobbiamo presumere sia circonciso, eppure è malato di sesso, da quello che sembra. E infatti oggi ho messo un bellissimo post su Facebook, ho scritto proprio questa cosa qua, ho detto, pur essendo circonciso, una persona come lui, che è potente, ricco, tipo pieno di sé, con tutte le belle donne intorno a lui, la circoncisione non è sufficiente per far fronte eccesso così di mondanità di donne. Ho capito. Ed è lì che io ho detto, attenzione, il Talmud dice che non basta solamente essere circoncisi, è molto importante sempre studiare un po' di Torah, un po' di Bibbia, per calmare un po' i nostri istinti animaleschi. Ecco lì. Leggere la Bibbia potrebbe calmare i nostri impulsi animaleschi. Lo possiamo dire che godi di meno con la circoncisione o no? Gode un po' di meno nell'organo maschile genitale, e gode invece, il godimento è più distribuito in tutto il corpo, è un Viagra naturale, cioè è una cosa bellissima. Come un Viagra naturale? Non c'è bisogno. È un Viagra naturale, è un Viagra naturale. Ma quasi sì. Allora passiamo alla pulizia, questa qua è una cosa negata da tutti gli studi medici. Non è vero che c'è più pulizia, non è vero, me lo sono andato a vedere, non è vero. Ma con che medico hai parlato? È una cosa controversa, invece secondo me... Ma con i medici della Lazio hai parlato Facciamo i medici della Lazio ti hanno detto sta roba, ma dai. Rabbino, ma per lei? No, no, la polizia se, a livello igiene, se, io conosco tantissime persone che hanno dovuto fare per questione di igiene, per cui certo. Ci sono dei casi in cui è fondamentale. C'è una cosa, ma poi chi se ne frega, non te la vuoi fare, non fartela, mica nessuno ti obbliga a farla, ma lascia stare, no, noi voi ce la vogliamo fare bambini, tranquillamente. Voi obbligate i bambini. Ma non è che obblighiamo, fa parte della tradizione, non senti niente. Ma che vuol dire, anzi, la tradizione fatta, pure, grazie pure... a Dio l'ho fatta ai miei due figli maschi, è stato uno dei giorni più belli della mia vita, ma sono della molto tua serio. Vita, della tua vita, della tua della vita. Vita di ebreo, certamente, e lo sarà anche dei figli loro, certo. Tutti si circoncidono perché è un patto eterno. C'è scritto il patto di Abramo, il patto ma eterno. Patto, ma il patto di Abramo, il patto eterno. Il patto. Ma perché un patto con Dio? Perché uno si deve tagliare il prepuzio? Qui entriamo nella mistica, ci sono delle spiegazioni. Non dare perle ai porci, rabbino. Sì. Lei lo consiglia a tutti? Se qualcuno si sente che ha troppo eccesso di piacere locale, troppo dipendente, magari sì. Concludiamo con una cosa, caro rabbino, ed è questa. Lei dovrebbe fare un saluto speciale a Mauro da Mantova. Cioè, no, un saluto no, da... No, perché lo fa andare in bestia questa cosa qua. Se lei lo saluta, un caro saluto dal rabbino a Mauro da Mantova, che è profondamente anti-ebreo, e un saluto da lei lo riporterebbe forse nella nell'alveo e nella... No, lo riporterebbe nella civiltà. Ecco, insomma, faccia un saluto se vuole. Allora, Mauro di Mantova, sì. Un carissimo saluto sì, da un rabbino. La vita è lunga, mai essere determinati, fissati sulle proprie idee, c'è sempre possibilità di cambiare e di migliorare. Bellissimo. Troviamo l'equilibrio centrale, sempre la strada centrale, e allontaniamoci dagli estremismi. Ciao Mauro. Bellissimo. Arrivederci, rabbino. Ciao Rav. Ciao, ciao. Un abbraccio. Ciao Rav. Shalom.